Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Dirty, Difficult, Dangerous di Wissam Sharaf al cinema da mercoledì 1 novembre 2023. Ben trovato! Ben trovato a te Federico e a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa. Cosa racconta quest'opera? Wissam Sharaf è arrivato alle giornate degli autori del Festival di Venezia l'anno scorso con il suo secondo lungometraggio. Lui aveva realizzato dei cortometraggi e anche un primo lungometraggio che nel 2016 era partito da Cannes, ma era passato anche al Torino Film Festival, si intitolava Heaven Sent. Dirty, Difficult, Dangerous sono tre aggettivi che noi abbiamo voluto mantenere insieme a Intramovies, che è il distributore internazionale ma è anche coproduttore del film, la cui azione con Paola Corvino collaboriamo per la distribuzione in Italia di questo film. Abbiamo voluto mantenere il titolo in inglese perché, come potete ben immaginare, tradotto in italiano poteva essere accomunato ad altri film di altissimo livello, naturalmente Brutti, Sporchi e Cattivi, Il Buono, Il Brutto e Cattivo, però di altro genere, di altro tipo. E quindi abbiamo voluto mantenere questo perché anche la storia è una storia ambientata in Libano, a Beirut, e che racconta un amore difficile tra un profugo siriano, di fatto un clandestino a Beirut, e una emigrata etiope che lavora come badante presso la casa di un ex generale, quindi una casa borghese. E quindi la difficoltà, che nel genere storie d'amore contrastate è comunque una costante narrativa, c'è anche in questo film, ma naturalmente il vissuto di questi due personaggi consente a Wissam Sharaf di raccontare il contesto non solo di Beirut ma di tutto il Medio Oriente, quindi la Siria, il Libano stesso, che è purtroppo recentemente ritornato prepotente agli onori della cronaca, e però è in grado in questo caso Sharaf di raccontare anche i rapporti di classe, perché qui in un contesto che è comunque interessante ma che può sembrare d'altra parte anche scontato, in realtà sorprendentemente una storia che, essendo una storia d'amore di genere, ha una sua leggerezza, comunque racconta anche le differenze di classe che in qualche modo costringono i personaggi, che sono invece a loro modo delle persone estrose e creative, e quindi le difficoltà come lavoratrice della protagonista e le difficoltà del protagonista come clandestino, rispettivamente Media e Ahmed, sono anche dovute alla loro condizione lavorativa. La multietnicità già nota del Libano si accentua anche qui, perché le diverse culture di provenienza, anche le diverse lingue, l'etiope che Media parla, Ahmed parla l'arabo, non riesce a parlare con facilità con Media e quindi hanno bisogno della lingua veicolare, e quindi l'inglese. Ecco, in realtà questo mescolamento di lingue, che è anche un mescolamento potenzialmente ricco di culture, lo abbiamo voluto comunque mantenere simbolicamente nel titolo in inglese. E la cultura etiope da cui proviene Media è una cultura cristiana, cioè un'antica parte di popolazione di religione cristiana, mentre Ahmed è un musulmano, ma nessuno dei due è veramente praticante. In ogni caso, tutte le difficoltà che noi possiamo anche immaginarci di vedere per le strade di Roma, per esempio, le vediamo per le strade di Beirut, aggiunte appunto ai vissuti diversi di entrambi, perché in Etiopia comunque non c'è una piena democrazia, e mentre Ahmed dalla Siria si rifugia perché fugge dalla guerra, ha delle schegge nel corpo. Quindi in qualche modo sono portatori di storie di cultura personale e vivono appunto i rapporti di classe dovendoli subire, ma allo stesso tempo cercando di resistervi. Quello che è interessante anche nella storia di Hussein Sharaf è che lui riesce a dare questo tocco di leggerezza tipico comunque delle storie d'amore, seppure contrastate, e riesce a trovare una idea creativa che naturalmente lo spettatore scoprirà vedendo il film, che riesce a dare un tocco anche di utopia a questa storia e dare una prospettiva a questa coppia nella fantasia creativa dell'autore. Quali sono secondo te i pregi di questo lavoro? La capacità di mantenere il film in una linea narrativa concisa. Il film dura 84 minuti e quindi in questo caso molto spigolosa nel senso migliore del termine, nel senso che ogni passaggio topico della narrazione è qualcosa che ci colpisce, colpisce personaggi e colpisce noi. Questa capacità di parlare per vari passaggi molto appuntiti, ripeto, nel senso migliore del termine per un film, è la grande capacità di Wissam e anche di Hussein Sharaf, e anche di tenere insieme appunto queste diverse culture in una storia che comunque è una drammaturgia, perché è pur sempre un film, e quindi tenerle insieme senza che nessuna pesi di più tematicamente sull'altra, ma riesce a rendere questa idea del Medio Oriente che si concentra in un paese crocevia come il Libano, e quindi a essere così in grado di dipingere proprio questo contesto. E infatti le inquadrature hanno anche un pregio cromatico, cioè le inquadrature del film hanno anche un forte cromatismo e forti contrasti cromatici che sono anche molto interessanti da un punto di vista pittorico, nei limiti in cui può essere pittorico naturalmente un film. Che uscita sarà? Classica di un film indipendente, e quindi cerchiamo di conquistarci le nostre 15-20 sale un po' in giro per l'Italia, perché la cosa importante è essere presenti un po' in tutto il territorio nazionale, da cui poi si parte per andare anche in profondità nelle regioni, e quindi come è tradizione cinematografica internazionale ci daremo da fare per arrivare nel giro di un mese e mezzo, due mesi un po' in tutta Italia, raggiungere quelle 40-50 località, 50 sale. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Il sito web è cineclubinternazionale.eu e poi c'è anche la pagina Facebook di Cineclub Internazionale, dove saranno pubblicate le sale di volta in volta, dove è possibile trovare. Il film Dirty, Difficult, Dangerous di Wissam Sharaf al cinema da mercoledì 1 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Alla prossima! Grazie Federico. Alla prossima, grazie Federico. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Foto di famiglia di Ryota Nakano al cinema da giovedì 19 ottobre 2023. Ben trovato! Ben trovato, ciao, ciao Federico. Di cosa si parla? Questa volta andiamo in Giappone per raccontare una storia vera, una storia realmente accaduta. È la storia del protagonista, che si chiama Masashi Asada. È la storia di questo aspirante fotografo, parte dagli anni 80, da quando lui è bambino, e il padre gli regala per il suo 12° compleanno una macchina fotografica. Questo gesto fa scattare i Masashi, una scintilla, un flash in questo caso, e gli fa capire di voler diventare un fotografo da grande. Quindi gli anni passano, lui un po' si cimenta nell'arte fotografica, fino a quando gli viene una prima grande ispirazione, ovvero quella di ricreare attraverso dei set fotografici un po' arrangiati tutti i sogni che la sua famiglia avrebbe voluto esaudire, ma che non sono stati in grado di esaudirli. Ad esempio, lui che cosa fa? Va dal padre e gli chiede: tu papà che cosa avresti voluto fare da grande? E il padre gli risponde: il pompiere. Va dal fratello e gli chiede: cosa avresti voluto fare da grande? E il fratello gli risponde: il pilota di Formula 1. Quindi lui ricrea, ascoltando i sogni dei suoi familiari, tutti questi set fotografici, fa queste foto e riesce a pubblicare un primo libro di fotografie. Diventa a poco un grande successo. Quindi da lì in poi la carriera di Masashi decolla e si afferma come un fotografo sicuramente originale, la cui peculiarità è appunto quella di ritrarre famiglie, non solo la sua, ma anche quelle di tutto il paese, di tutto il Giappone, per ricreare queste fotografie che riescono a cogliere i momenti di massima espressione e di essenza della famiglia. La sua carriera però ad un certo punto subisce un arresto quando nel 2011 il Giappone viene colpito dal terremoto e conseguente tsunami di Fukushima. Quindi qua, in questo caso, Masashi decide di riporre la propria macchina fotografica per unirsi a un gruppo di volontari impegnati in una sorprendente missione, ovvero quella di recuperare le foto e gli album di famiglia perduti nel crollo delle case, ripulendoli e esponendoli in luoghi pubblici in modo tale che i proprietari potessero poi andare a recuperare le fotografie dei propri cari che purtroppo magari erano periti nel terremoto. Quindi è una storia vera, Masashi Asada esiste veramente, il progetto di salvataggio delle foto è tuttora attivo, nel senso che nonostante tutti questi anni ci sono ancora gruppi di volontari nei villaggi delle coste del Giappone impegnati nella restituzione delle fotografie. Del regista cos'altro sappiamo? Non è il suo primo film questo, ma è il primo film che arriva in Italia. Noi lo abbiamo scoperto un po' per caso, nel senso quello che noi facciamo è andare a scovare delle filmografie lontane e seminascoste. E quindi insomma in questo caso ci siamo un po' dovuti proprio addentrare nella cinematografia popolare giapponese. Foto di famiglia, il cui titolo originale è Asadake o di Asada, significa appunto la famiglia Asada, è stato un grandissimo successo in Giappone dove ha attirato circa 1 milione di spettatori per un totale di 10 milioni di euro di incasso, e non solo lì, anche in Francia il film è stato distribuito con un enorme successo e noi insomma un po' speriamo di replicare, non dico allo stesso modo, ma sicuramente sperando di poter offrire al pubblico italiano l'opportunità di vedere una storia sicuramente insolita e piena di gentilezza, di solidarietà e umanità. Cosa ti ha convinto stilisticamente? È un film veramente originale, perché diciamo che è costituito da due anime. La prima parte del film, se vogliamo, è più vicina alla cinematografia pop giapponese, ovvero ci sono queste situazioni molto divertenti, molto colorate, ambientate tutte nel nucleo familiare del protagonista. La seconda parte del film invece vira di più verso la drammaticità, ma anche perché il film poi racconta nella seconda parte del disastro di Fukushima, che tutti abbiamo purtroppo memoria, e quindi l'ho trovato sicuramente un film che riusciva a bilanciare in modo molto equilibrato queste due anime, ovvero sia quella più da commedia che quella più drammatica. Che distribuzione sarà? Il film appunto esce giovedì 19 ottobre, partiamo dalle principali città, che è un po' la nostra consuetudine, il nostro percorso solito, per dare modo insomma al film di attirare il più grande numero di persone, e poi nelle settimane successive cerchiamo di addentrarci sempre di più nelle province sperando che il pubblico lo possa accogliere. L'elenco delle sale è disponibile sul nostro sito officinobu.com e anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Il film Foto di famiglia di Ryota Nakano al cinema da giovedì 19 ottobre 2023, distribuito da Officine Ubu. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola. Alla prossima! Alla prossima, grazie. Con Costanza Marguglio di Wanted Cinema, che distribuisce il film A Passo d'Uomo di Denis Humbert al cinema da giovedì 19 ottobre 2023. Ben trovata! Ciao, buongiorno e grazie per questo spazio come sempre. Raccontiamolo in breve. Il protagonista assoluto del premio Oscar Jean Dujardin è il film appunto uscito con Wanted in tutta Italia con il patrocinio del CAI nazionale. Il film è tratto dal libro Sentieri Neri dell'autore francese Yvan Tesson e racconta diciamo un imponente episodio autobiografico dell'autore stesso, che in seguito a un gravissimo incidente, possiamo dire quasi mortale, che l'ha costretto anche a letto per diversi mesi, decide di svoltare la sua vita, ovvero si promette in modo molto solente che si fosse ripreso avrebbe attraversato l'intera Francia a piedi, dedicando quindi del tempo al suo corpo, alla sua mente e soprattutto a una riconnessione profonda con la natura. È un film molto bello da guardare, è molto appagante, sia per le sue riprese, sia per questo ritmo allo stesso tempo incalzante, ma anche molto disteso. Amber, lo conosciamo in Italia? Non particolarmente, si è occupato finora di commedie francesi. Il film comunque è esordito al Trento Film Festival, lo ha aperto il festival e l'ho anche vinto quest'ultima edizione dello scorsa primavera. All'estero che percorso ha avuto tra festival e sale? Fondamentalmente è stato un grandissimo successo in Francia, specie per diciamo, l'attaccamento che sicuramente il pubblico francese ha nei confronti di Stone, che comunque è un autore assolutamente stimato e largamente riconosciuto. C'è stato un grandissimo applauso della critica e anche del pubblico. Cosa ti ha convinto in particolare di questo lavoro? Il fatto di probabilmente vedere effettivamente sul grande schermo un lato particolarmente intimo e profondo di un autore così imponente come Dante Stone, sul quale avevamo già lavorato l'anno scorso con La Pantera delle Nevi, titolo anche questo molto acclamato, ed è stato bello vedere in prima persona la trasposizione di un periodo della vita complesso, però sicuramente interessante, dell'autore. Che uscita è? Abbiamo circa una sessantina di sale in tutta Italia, in realtà la programmazione è in continuo aggiornamento e diverse proiezioni sono anche accompagnate da eventi in sala. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Ci trovate sul sito ufficiale, quindi wantedcinema.eu, dove trovate la programmazione e tutte le informazioni sul film, e sui nostri social, ci trovate sempre come Wanted Cinema, trovate la calendarizzazione degli eventi e delle proiezioni speciali. Il film Passo d'uomo di Denis Humbert al cinema da giovedì 19 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Costanza Marguglio di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto! Grazie a te, a presto! Con Ettore Spagnuolo dell'Associazione Culturale Visioni e Illusioni, in occasione dei 50 anni dell'uscita in sala, presenta il film Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli a Roma, alla Sala Cinema dell'Anica, giovedì 26 ottobre 2023. Ben trovato! Buonasera, come sta? Tutto bene? Bene, grazie. Partiamo dall'Associazione Culturale Visioni e Illusioni. Ce ne parla? L'Associazione Culturale Visione e Illusione a gennaio fa 10 anni noi stiamo a Roma a proiettare film, a fare cultura in senso generale, perché oltre a fare film presentiamo dei libri e abbiamo fatto dei concerti nei musei più importanti di Roma, anzi esattamente 90 concerti in 3 giorni in tutti i musei più belli, facendo circa 4.500 presenze grazie a Zetema, vecchia gestione. E ci è venuto a mancare però ultimamente il nostro presidente onorario Giuliano Montato, che era il mio fratello maggiore ed è stato l'ispiratore dell'associazione che si doveva dedicare esclusivamente alla cultura in senso lato, dal cinema anche altre cose. Giuliano è stato il mio fratello maggiore in effetti e mi manca parecchio. È nostra intenzione lasciarlo come presidente onorario e pensiamo di fare una borsa di studio alla migliore regia della scuola dedicata a Gian Maria Monte e a Giuliano Montalto, e facciamo la proiezione della Sala Anica per la famiglia Tognazzi. Molto probabilmente verrà Ricky Tognazzi. La trasmissione Ballando Ballando ti lo consente, perché sta facendo questa trasmissione e non sa quando lo convocano. Comunque ci ha assicurato che se la convocazione glielo consente verrà alla proiezione e parleremo dell'importanza di Tognazzi e dei 50 anni dell'uscita del film. È anche un omaggio a Mario Monicelli. Abbiamo fatto diversi film di Mario Monicelli. Monicelli ha rappresentato anche per noi una pietra miliare del cinema italiano, insomma. Da Amici miei in poi, insomma, Monicelli è stato molto ricordato da noi. Cosa diciamo di Vogliamo i colonnelli? Abbiamo pensato a questo film e visto l'atmosfera che c'è di un po' di remake, di volere l'uomo della provvidenza. Noi ci auguriamo che la democrazia riesca a vincere sempre e che sia portatrice anche di pace, visto quello che sta succedendo in tutto il mondo, dalla Russia alla Palestina. Speriamo che ci possa essere un po' di ravvedimento da tutte le parti. Perché abbiamo pensato a questo film anche considerando questa forma quasi di follia che è imperversa. Lo raccontiamo anche per i più giovani. Cosa racconta questo film? racconta che dei militari un po' esaltati pensano di fare un colpo in Italia, e questo nasce anche perché anni prima i greci, i colonnelli, avevano preso il potere, e anche in Cile, e anche in Italia ci fu un militare che si presentò che voleva fare un colpo di Stato in Italia, e fu quasi una barzelletta, insomma. C'è qualche militare che si è sentito offeso da questo film, però secondo me non c'è da essere offesi, perché non sono i militari che fanno i colpi di Stato, ma sono spesso i politici mancati, sicché è un film da guardare anche in prospettiva, considerato il momento politico che imperversa in tutto il mondo, che c'è poca politica. E allora questa è molta satira, di conseguenza bisogna considerare che la satira spesso aiuta la politica ad uscire fuori. E a Roma noi abbiamo proiettato molti film alla Casa del Cinema, è una cosa che ci ha fatto divertire molto, che abbiamo utilizzato per le proiezioni anche la casa di Alberto Sordi, dove abbiamo fatto dei film sempre con Alberto Sordi. Poi per motivi diversi non abbiamo più continuato, però è stato un momento molto divertente proiettare dei film in casa di Alberto Sordi, che secondo me è un altro esponente importante della nostra cinematografia. Se uno vuole sapere qualcosa sull'associazione, basta che va sul sito visioneillusione.com. Abbiamo anche aiutato, ha partecipato a un corto Sciuscià di un giovane regista che ha avuto in Astro del Centro, insomma ci spaziamo un po' a 360 gradi, ecco. In occasione dei 50 anni dell'uscita in sala del film Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli, la proiezione a Roma, alla Sala Cinema dell'Anica, giovedì 26 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Ettore Spagnuolo dell'Associazione Culturale Visioni e Illusioni. A presto! Grazie a voi, buona serata! Con Francesco Ruzier, uno dei curatori della 23esima edizione del Trieste Science Plus Fiction, dal 27 ottobre al 1 novembre 2023, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è? Il Trieste Science Plus Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, dove ogni anno vengono presentate in anteprima le migliori produzioni del genere fantastico e fantascientifico in ogni possibile declinazione. È principalmente un festival di cinema, quindi il cuore della manifestazione sono le proiezioni dei film, gli incontri con gli attori e i registi. Dall'altra parte però è un festival che vuole, insomma, declinare la fantascienza in ogni possibile forma, e quindi è un festival anche molto ricco di eventi collaterali che provano a trattare la fantascienza appunto da ogni possibile punto di vista. Ci sono incontri scientifici, ci sono presentazioni di libri, ci sono spettacoli teatrali, concerti, musica, mercatini, videogiochi. Quanti sono i film presentati in questa edizione? Quest'anno abbiamo oltre 50 anteprime italiane, per cui comunque un programma molto ricco, oltre a tutti i film di retrospettiva. Per noi è un'edizione tra l'altro molto importante, perché quest'anno si festeggiano 60 anni di fantascienza a Trieste, perché dal 1963 al 1982 si svolse al Castello di San Giusto il primo festival internazionale del film di fantascienza, che poi appunto rinacque come Trieste Science Plus Fiction Festival dal 2000. Quindi appunto è un'edizione che stiamo celebrando molto, e infatti anche proprio al Castello di San Giusto è in corso una mostra che racconta di 60 anni di fantascienza a Trieste, che si chiama Alabarde Spaziali, e resterà allestita fino a febbraio. Ci saranno ospiti anche autori e autrici? Sì, sì, assolutamente, è appunto un'edizione anche molto ricca da quel punto di vista. Avremo tra gli ospiti più pop, quelli conosciuti da tutti, ci saranno Federico Zampaglione, che cantante di Romancino, e Claudia Gerini, che presenteranno l'anteprima italiana del nuovo film di Zampaglione, si chiama The Well, che è un ritorno al cinema di genere per questo autore. Poi per quanto riguarda invece la parte più scientifica del festival, ci sarà ospite Paolo Nespoli, che è il primo astronauta italiano ad aver partecipato a una missione di lunga durata. Infatti è stato nello spazio per ben 313 giorni e parteciperà ai talk di Mondo Futuro, che appunto sono gli incontri fantascientifici che organizziamo ogni anno, e presenterà anche un documentario. Poi ci sarà il compositore Pino Donaggio, che è famosissimo per la sua collaborazione con il regista Brian De Palma, che presenterà la versione restaurata di A Venezia, Un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg. E poi ci sarà anche Tim Webber, che è un premio Oscar per gli effetti speciali di Gravity, ma è un autore che ha lavorato anche sugli effetti visivi di Harry Potter, Il calice di fuoco, del Cavaliere Oscuro di Avatar, quindi insomma un nome davvero, davvero molto importante. Quest'anno vi siete concentrati su alcune tematiche? Cerchiamo di non focalizzarci su qualcosa di preciso, però comunque poi dal programma emerge sempre qualcosa di centrale. Quest'anno si parla molto di intelligenza artificiale, di distopia, di ecologia, di genetica, perché riproporremo anche il film Jurassic Park, quindi comunque sono tanti gli spunti appunto per tornare a parlare anche di tematiche diverse. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il programma sempre aggiornato si trova sul nostro sito web, che è www.sciencefictionfestival.org. 23esima edizione del Trieste Science Plus Fiction dal 27 ottobre al 1 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Francesco Ruzzieri. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Cristina Berlini, direttrice artistica della quinta edizione del Festival Docu Donna, a Massa Marittima dal 27 al 29 ottobre 2023, ben trovata. Ciao Federico, buongiorno. Spieghiamo cos'è a chi non lo conoscesse. Docu Donna è un festival internazionale di documentari dedicato alle registe e alla regia femminile, quindi diciamo dare un piccolo spazio per quello che possiamo alla cinematografia femminile, la promozione, far conoscere i film realizzati dalle donne. Com'era nato tutto? Dalla voglia di realizzare uno spazio che fosse dedicato appunto alle registe, ecco, perché qua si parla di promozione, dare spazio alle artiste. Io in genere lavoro sempre sul uscire un po' dagli stereotipi, quindi più o meno quando si parla di regia femminile si immagina, o comunque ci vogliono immaginare sempre affiancate. Invece Docu Donna, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare spazio alle tante modalità la interpretazione delle registe, quindi usando davvero anche con materiali, sperimentazioni, corti, cortissimi, lunghi e anche sicuramente con documentario classico d'appunto, però ecco anche approcci diversi. Come si caratterizzerà l'edizione 2023? Io sono entusiasta, sono emozionata perché ogni volta è una bella avventura, una dolce avventura. Riuscire ogni volta e riuscirci appunto a arrivare lo stesso sogno, perché alla fine è quello che si tratta, no? È sempre bello. Avremo due film come sempre di apertura e di chiusura del festival. Iniziamo con un film, ahimè, con una tematica attuale, si chiama Erasmus in Gaza, di Chiara Visani e Matteo Del Bo, e chiudiamo con un film olandese, che è una prima italiana, si chiama Esther and the Law, The Case Against Shell, il caso contro la Shell, di Tatiana Scheltema. Noi cerchiamo di dare anche spazio a foto, mostre, installazioni, presentazioni di libri. Quest'anno ci siamo un po' ridotte, non in qualità ma in tempistiche, quindi la mattina le abbiamo lasciate più o meno libere e abbiamo una mostra fotografica di una fotografa austriaca, un nome impronunciabile, però ci provo, Tabea Kersbauben. Il progetto si chiama 48 Stitches sono delle testimonianze di donne palestinesi che indossano questo costume, che poi non è un costume ma un vestito ricamato dalle donne da generazioni in Palestina. Poi avremo appunto il 27, è un giorno importante per noi, è sempre stato fin dall'inizio quando l'abbiamo pensato anche mesi fa, perché prima del film ci sarà un momento di non tanto riflessione, ma più che altro era un momento di, io lo chiamo di bellezza, no? Esaltazione della bellezza di quello che è le capacità, le possibilità delle donne, della creatività delle donne. E c'era un momento, prendendo spunto appunto dal film Erasmus in Gaza, parlare di Palestina, delle donne palestinesi. Ci saranno un paio di ospiti, tra cui Taysir Hasbun, che ha presentato questa mostra che adesso sarà anche a Roma, sul tub palestinese, questo appunto ricamo, vestito tipico della tradizione palestinese delle donne, che ha avuto anche lì un'evoluzione, un cambiamento, e lui lo definisce come anche un momento di resilienza o comunque di senso di appartenenza, almeno questo è quello che lui mi dice che le donne stesse testimoniano. Avremo Amnesty International con un bacchetto che cerchiamo di dare un po' di spazio anche a varie tematiche tra Palestina e Iran. Quanti sono nel complesso i titoli e saranno accompagnati dalle autrici? Dopo quasi 3 anni di Covid, dove avevamo appunto pochissima presenza delle registe, avremo finalmente 4 su 8, e le altre, una in Norvegia, una in Olanda, con un progetto che sta girando ora. Sono film molto molto diversi fra loro e questa cosa mi piace. Avremo un film già conosciuto come Be My Voice, della regista iraniana ormai svedese Nahid Persson, e dopo seguirà un focus in Iran. Non ho detto chi sono le nostre, abbiamo Nadia Pizzuti, che è regista e artista, e Aline Hervé, una grande montatrice. E ci sarà Focus on Iran, che è un momento di spiegazione, se la vogliamo chiamare così, da parte di Nadia Pizzuti, appunto la nostra memoria, che lei è stata la prima corrispondente donna a Teheran negli anni 90, se non sbaglio, quindi può portare una testimonianza non proprio attuale, comunque sta sempre in contatto con il mondo iraniano, molti contatti. Quindi io gli ho chiesto se era possibile darci un po' un excursus, c'è stato un cambio nelle generazioni e come e perché. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito è sempre lo stesso, docudonna.it, Instagram e Facebook sono docudonna. Quinta edizione di DocuDonna, Festival Internazionale del Documentario a Regia Femminile, a Massa Marittima dal 27 al 29 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Cristina Berlini. A presto! Grazie Federico! Con Marco Panella, regista del film Ultima Giornata. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Che storia hai raccontato? Abbiamo raccontato una storia di calcio, di sport, di quartiere, di persone, di emozioni. E questo tutto insieme ha prodotto una narrazione dal vero. Il docufilm che abbiamo girato, Ultima Giornata, è tutto quanto in resa diretta. Abbiamo parlato con i ragazzi dell'Under 19 del Monte Spaccato, che abbiamo seguiti lo scorso mese di aprile, dal lunedì al sabato. Il sabato sarà l'ultima giornata appunto del loro campionato. E li abbiamo seguiti in campo, li abbiamo seguiti alcuni nelle case, abbiamo parlato con i genitori che invece vengono a seguirli a campo, perché giocare a calcio per un ragazzo è una passione, per un genitore è una missione in qualche modo, perché poi i genitori li accompagnano, vanno in trasferta con loro, quindi è una vita, diciamo, familiare, comunitaria, che si instaura e che lega poi moltissimo genitori e figli da questo punto di vista. E abbiamo raccontato la loro storia, peraltro, in un contesto molto particolare, perché il Monte Spaccato Calcio ha sulle spalle una storia di recupero di legalità in un quartiere, in una zona fragile di Roma, in una borgata che nasce negli anni 50 con l'edilizia spontanea di allora, e con una fragilità sociale, culturale, economica che si è portata dietro a lungo. in questo contesto poi hanno trovato in qualche modo spazio infiltrazioni criminali, e alcuni anni fa, 5 anni fa, in occasione di una operazione di polizia giudiziaria al campo sportivo, ci fu una delle prime attività spontanee create dagli abitanti della zona, ovviamente negli anni 50-60, che una delle prime cose che si fecero da soli, lavorando di notte alla luce delle macchine che mantenevano i fari accesi, si sferrarono un campo. Poi da lì, con una storia infinita che arriva fino ai giorni nostri, c'era un centro sportivo invece a tutti gli effetti. Questo centro sportivo è stato confiscato in un'operazione di polizia giudiziaria e assegnato per il recupero e la gestione a un ente della regione Lazio, la Tiro Savoia. In questi anni ha fatto attività sportive, attività sociali, attività culturali, tutte centrate sul recupero della legalità, ma anche della centralità del campo come attore di un miglioramento sociale di molti spaccati. E questa operazione ha portato alla conclusione, peraltro, nello scorso mese di giugno, dell'operazione di azionariato popolare, che è stato un successo. Oggi vi sono 1500 e qualcuna persone che sono diventati soci della rinata società calcio polisportiva di Montespaccato, e quindi c'è una partecipazione popolare assoluta su questa operazione. Il campo è stato assegnato poi in via definitiva, per cui oggi c'è un attore sociale che attraverso lo sport a Montespaccato migliora la condizione e la qualità di vita di tutto il quartiere Tramborgato. La storia che noi abbiamo raccontato quindi si intreccia in questa storia precedente, attuale, perché continua ovviamente, e noi abbiamo raccontato le emozioni dei ragazzi che, con una serie di aspettative, con una serie di possibili scenari, affrontano l'ultima giornata di campionato. L'ultima giornata è stata ovviamente preceduta da preparazioni atletiche, ovviamente, di allenamenti, ma anche da preparazioni veramente, da briefing, insomma, no? Il coaching, gli allenatori non curano i ragazzi soltanto dal punto di vista atletico sportivo, ma anche dal punto di vista della personalità, del carattere, della gestione delle emozioni. E tutto questo noi l'abbiamo raccontato nel docufilm. Il finale dell'ultima giornata è stato un finale non atteso, nel senso che non è andato incontro alle aspettative dei ragazzi. Il Montespaccato con il Tivoli perde nel sabato dell'ultima giornata di campionato. E tutto questo ha dato però il senso compiuto a quello che accade normalmente, perché ci sono aspettative che si risolvono in maniera positiva e altre no, ma questo fa parte del gioco grande, non è soltanto quello che c'è in campo, ma del gioco grande che è la vita. Quindi questo racconto è un racconto assolutamente vivo, vivace, reale, e tocca con mano l'emozione dei ragazzi, ma anche dei genitori. Ripeto, veramente alcuni genitori ci hanno dato tantissimi spunti e suggestioni di come il calcio, lo sport in senso lato, diventi veramente uno specchio della realtà sociale, della realtà culturale, ma sia possa essere anche un formidabile attore di miglioramento e di recupero, dove queste immagini di miglioramento e recupero a volte sono un po' trascurati da altri. Ecco, lo sport può diventare veramente un acceleratore di tutto questo, un protagonista. È una bella storia anche per questi motivi. Che tipo di circuitazione avete immaginato per quest'opera? Lo presenteremo adesso ai vari festival documentari, e adesso siamo in procinto di presentarlo alle varie piattaforme broadcast per proporre la messa in onda. Vediamo come ci accoglieranno. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? Potete trovarli sia sul sito della testata sportmemory.it, che è la nostra testata. Noi facciamo narrazione sportiva, raccontiamo storie. Parliamo di calcio o di atletica o di automobilismo in senso stretto sulla cronaca, ma raccontiamo storie recuperando, a volte storie sconosciute, a volte storie disperse, a volte storie note, che però cerchiamo di raccontare con taglio più emotivo, più emozionale. Sulla rubrica video di Sport Memory ci sono i link ai due trailer, uno più esteso e uno alla clip da 30 secondi, l'altro invece è da 1:40, che danno già un'idea di quello che è il docufilm. E poi c'è un razionale che lo racconta, che spiega un po' le cose che vi sto dicendo io adesso. E poi, per quanto riguarda invece il Montespaccato, si può andare sul sito del Montespaccato Calcio e trovare tutta l'attività che loro fanno. La Tiro Savoia è stato il protagonista di questa azione di recupero ed è tuttora coinvolto nelle attività del Montespaccato. E anche sul sito della Tiro Savoia si possono trovare una serie di informazioni rispetto a quello che fa l'azienda di servizi alla persona, la Tiro Savoia, della Regione Lazio.